questa notizia posta in questi termini e che riprende appunto anche le varie dichiarazioni di esponenti istituzionali, prima fra tutti ad esempio il sindaco di Clavière, che ci ha tenuto insomma a dire che questo sconfinamento è qualcosa di strano e illegale, un unicum quasi, ammettendo di fatto di non sapere assolutamente cosa avviene sul suo territorio, sul territorio di cui lui ha competenza. Questo perché la pratica dei pushback, ovvero dei respingimenti, è una pratica disumana e violenta che avviene quotidianamente sul confine fra l'Italia e la Francia, a Bardonecchia, a Clavière, ma non solo, perché insomma l'abbiamo visto essere pratica consueta ad esempio anche per quanto riguarda la zona di Ventimiglia. Per l'appunto viene raccontata come se fosse un caso unico, un caso speciale su cui indignarsi, e non piuttosto insomma una quotidianità, una consueta quotidianità di un sistema, quello della frontiera, in cui sostanzialmente le persone vengono fermate, minacciate, derubate, anche pestate dalla polizia francese e poi riportate in Italia come fossero dei pazzi. Dico questo insomma perché nel corso di questi mesi, anzi quasi nel corso di un anno da quando seguo la questione, più e più volte insomma ci sono stati episodi anche documentati di migranti fermati dalla PAF, che è la polizia di frontiera francese, e derubati dei loro soldi e poi minacciati di essere rispediti con un aereo in Libia nel caso insomma avessero continuato la loro protesta, oltre al fatto che di inseguimenti lungo quei confini, di pestaggi e di respingimenti per l'appunto è qualcosa che purtroppo avviene quotidianamente. E appunto insomma questa mattina, dopo aver letto la notizia, insomma il caso che come dicevi tu sta facendo risalire la tensione fra Italia e Francia, mi sembrava importante provare a pubblicare questo piccolo spezzone di video che avevo filmato il 29 dicembre dello scorso anno, quindi un bel po' di mesi fa, e che di fatto immortala questo respingimento, ovvero un furgone bianco senza scritte, senza insegne, ma con a bordo due uomini in divisa della gendarmerie francese, che arriva davanti alla stazione di Bardonecchia, quindi non siamo a Clavière ma siamo a Bardonecchia, e di fatto scarica due persone. Questo per l'appunto avveniva una sera di 29 dicembre, insomma davanti alla stazione di Bardonecchia. Per chi immagino non conosca la città, non conosca il territorio, sta tipo a 170 metri dal commissariato di polizia di frontiera della polizia italiana, quindi una pratica che appunto più volte mi è capitato di filmare, di vedere con i miei occhi, e che oggi sembra quasi meravigliarsi sia da un lato che dall'altro, sia da parte italiana che da parte francese, sostanzialmente insomma tutta una visione, un racconto, quello che viene fatto di questa quotidianità, ma viene fatto diciamo nei termini molto, molto nazionalisti e molto razzisti, mi verrebbe da dire, ponendo l'accento sulla violazione del confine, sulla violazione delle leggi, sulla violazione degli accordi, e non sulla violazione invece dei diritti di queste persone che non vedono negarsi la possibilità di richiedere asilo. E questa è una pratica che il più delle volte va a interessare soprattutto i moltissimi minori non accompagnati che per l'appunto provano ad attraversare il confine nelle condizioni che sappiamo, un valico alpine, quindi con un alto tasso di pericolo. La chiusura di fatto delle frontiere su base etnica ha prodotto anche dei morti? Assolutamente sì, ha portato dei morti che insomma sappiamo purtroppo non essere una novità, ma ritorna, o meglio a essere una notizia su questo confine, che è un confine che da centinaia di anni vede un luogo di passaggio, un luogo di migrazioni, che diciamo per tutto l'Ottocento, anche soprattutto nel secondo dopoguerra, ha visto il passaggio di decine e decine di migranti italiani che lì su quelle stesse montagne hanno comunque perso la vita, così come oggi la perdono i migranti, soprattutto di origine africana, che provano ad attraversare quel tratto di confine. Lo scorso inverno ci sono stati tre morti, c'è stata la morte di Beauty, questa donna incinta che è stata respinta proprio dalla gendarmerie francese al confine, dopo insomma essere stata portata d'urgenza in ospedale, ha partorito il suo bambino che per fortuna ha sopravvissuto, ma lei invece sfortunatamente non ce l'ha fatta. E poi la storia di Blessing Matthew, questa ragazza nigeriana di 21 anni che sostanzialmente già in territorio francese per scappare insomma alla gendarmerie che sostanzialmente aveva teso un agguato a lei e ad altre persone con cui viaggiava, che si stavano dirigendo verso la città di Brianzona, sostanzialmente appunto è caduta, è scivolata in un torrente che si chiama Torrente Durance e ha perso la vita. E poi Mamadou, che invece è stato ritrovato sulle montagne sopra Bardonecchia quando insomma torno al mese di maggio, quando la neve è iniziata a sciogliersi, è probabilmente una di quelle storie terribili che forse non conosciamo del tutto, ovvero di Mamadou che si perde sulle montagne, non riesce più a trovare la strada per tornare indietro, pietra, sostanzialmente muore di freddo. Quindi insomma questo confine, questa frontiera, come tutti i confini, come tutte le frontiere, continuano ad uccidere, e quindi è necessario, penso, riportare la discussione, il centro dell'attenzione, sugli enormi pericoli che le persone vanno ad affrontare a causa di quelle leggi razziste, di quelle insomma leggi europee, anche degli accordi nazionali, come ad esempio insiste quello fra Italia e Francia proprio su quel tratto di confine, e denunciare quotidianamente quello che avviene, soprattutto il fatto che questi respingimenti sono pratica quotidiana e non un unicum.